Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. La donna deve stare più a posto suo. E l'uomo, come l'uomo si dice che porta il cappello. E come se gira va bene, ma la donna deve stare riservata in sé. Perché quando che l'uomo sposa una donna, deve essere riservata la donna, non deve aver fatto mica quello che gli pare piace. Ho provato le varie situazioni, nel senso che prima ho provato la coppia aperta, per cui tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio, eccetera, eccetera. E secondo me è una situazione troppo stressante, perché la gelosia è sempre lì. Poi ho provato la situazione in cui, insomma, io ero il passivo e lei faceva quello che voleva, però per un uomo è pesante. Ho provato anche la situazione contraria. Adesso sto provando la situazione per cui, avendo un figlio piccolo, a me praticamente non interessa assolutamente nulla di quello che fa lei, e devo dire che forse la soluzione migliore è quella. Questo signore starebbe parlando d'amore, ragazzi. A me già mi sta venendo sonno. Sì, oggi è San Valentino, la giornata degli innamorati. Non so quanti se ne ricordano, quanti ancora hanno voglia di ricordarsi di questa tremenda e mefitica data inventata da un produttore di cioccolatini con la nocciola dentro, con un santo tarocco di cui c'è un gran simulacro d'argento in una zona del Ternano e dentro ci sono due ossa. Quello è il santo degli innamorati. E gli innamorati ancora esistono, ancora senso celebrare gli innamorati. Cosa sono gli innamorati? Sono quei ragazzini col cuoricino che stringono per la mano, che sognano per loro una vita felice, lunga, eterna, si terranno sempre nella mano, anche nell'aldilà. Ma esiste ancora questo? Non c'è più niente di tutto questo oggi. Dov'è l'amore? Cos'è l'amore? E in cosa è racchiudibile il termine amore? Nel fare l'amore, quindi nel accoppiarsi. L'intima d'azione è l'essenza dell'amore. Amarsi vuol dire seguire in maniera compulsiva una persona che ci sfugge. Oggi le più tremende, virulente prove d'amore sono gli stalker che seguono le persone e le ossessionano: perché mi hai lasciato? Perché non mi ami? Oggi è una domanda: perché tu non mi ami? E cosa ha a che fare questo con l'amore? L'amore è qualcosa che ci prende, ci sconquasta, ci sovrasta e che riusciamo se no a definire, ma oggi lo definiamo in tante maniere. Ieri abbiamo visto la coppia, nel festival di Sanremo, che scambiavano i messaggi d'amore. È un passo avanti, chiunque si può amare, al di là del genere di appartenenza, al di là della specie, al di là di tutto, al di là delle inclinazioni, siamo d'accordo. Ma ancora senso di parlare di una festa dell'amore? Questa mattina un'amica simpatica, per prendermi un po' in giro, mi ha mandato un SMS con le solite formule che scambieranno ancora forse qualche ragazzino, ammesso che abbia pallidi ricordi di quello che sia la festa dell'amore. C'è tutto un acronimo: ti voglio un monte di bene, io e te tre metri sopra il cielo per tutta la vita, amami per sempre, poi tutti i cuoricini, via dicendo. Mi prendeva in giro, naturalmente mi rappresentava il paradosso, mi dava il senso vomitevole di quello che io considero la forma più bassa di approcci di relazione fra due esseri umani: parlare d'amore. Quando si parla d'amore, l'amore già sta da un'altra parte. Invece avete sentito che in apertura era molto interessante. C'era un signore che nell'anno 1965, con l'intento di provocare, perché lui stava girando l'Italia trovare le location adatte per fare un film su Gesù Cristo, immaginate un po', da fare Vangelo secondo Matteo Pasolini, si girava andando in giro per vedere se trovava il posto adatto, assieme al produttore Alfredo Bini, e già che girava cominciò a chiedere agli italiani che ne pensassero loro del sesso e dell'amore. Venne fuori un ritratto arretrato del paese, terribile. Contadine che dicevano che in realtà le donne erano assimilabili alle mucche che loro portavano per arare i campi, uomini che dicevano che assolutamente la donna deve arrivare illibatissima e integra al matrimonio, e se no scatta la gelosia. E giovani yeye di quegli anni, yeye nel senso sembravano giovani moderni e avanzati, che in realtà avevano idee che oggi non avrebbe nemmeno, non lo so, un governatore di uno stato delle bananas, capito, rispetto alle donne. Poi Pasolini era molto provocatorio, perché a tutti chiedeva cosa ne pensate degli invertiti. L'invertito era il termine democristiano che usava al tempo per definire una persona dall'inclinazione erotico-sentimentale non canonicamente indirizzata verso il sesso opposto. Lui naturalmente non diceva io appartengo a questo genere, ma diceva: cosa ne pensate degli invertiti? La maggior parte delle persone nemmeno sapeva di cosa si trattasse, cosa fosse. Ragazzine che arrossivano, abbassavano gli occhi. Beh, quella era la cifra dell'amore di quegli anni. E oggi, cosa pensate voi dell'amore? Siamo davvero così avanzati proprio perché sappiamo tutto sulla sessualità, sappiamo il manuale interminabile delle forme penetrative e possiamo oggi definire una cifra contemporanea dell'amore? O se no, stancamente ci ricordiamo di questa giornata di San Valentino, perché ancora qualcuno si manderà qualche bigliettino, si regalerà qualche cioccolatino, stancamente farà un omaggino riparatorio alla moglie, alla compagna, al compagno, al marito o alla persona con cui sta assieme, semplicemente per far lui dimenticare il tedio con cui hanno condiviso tutti gli anni, i mesi, i giorni, gli istanti precedenti. 800 24 00 24, se ci riuscite, sorprendetemi questa mattina con le vostre cognizioni, concezioni e ricordi dell'amore. Vado a Milano e quando parlo Milano, Bologna, anche a Roma, quando parlo con un ragazzo vengono anche le ragazze subito a parlare anche loro. E poi ci sono le ragazze che sono un po' meno evolute di noi, appena vedono anche una ragazza che partecipa più volte in piazza, ci sono sempre le polemiche, c'è sempre qualcuno che deve dire deve mettere il manico, ecco, questo. Capito. Se una ragazza non può nemmeno parlare con... si parla. Oddio, se lo vuole, fra conoscenti, fra amiche, però se si permette a salutare più volte qualcuno poi succede. È così? Sì, è così. È così? Ma a voi sembra giusto questo, oppure una situazione? No, a noi è sbagliato, per noi è sbagliato, perché non poter uscire, non poter parlare con qualcuno, è brutto. Ma quando poi una ragazza... Barbara Alberti, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ha una lacrimuccia di nostalgia per queste ragazzotte, tutte case chiesa, che al massimo mettevano una mano dentro i pantaloni guardando dall'altra parte, per loro era la massima concessione possibile nell'anno 1965. Ma nell'anno 1965 c'era moltissima grettezza di costumi, ma c'era più intensità. Voglio dire, ancora non c'era stata questa massificazione, questo buttare l'amore come consumo, ma scagliarcelo contro. Lei diceva prima San Valentino, giustamente, San Valentino è l'unica ricorrenza che ricorda, come sappiamo bene, è una strage, e quindi è proprio a ragione lei, è la cosa più bassa, perché sono frasi fatte, perché non c'è nulla di autentico, perché è la celebrazione della forma dell'amore, cioè della formalità dell'amore, che è la cosa peggiore. E intanto in questi 35 anni di più, che sono 50 anni, ormai 65, quanti anni sono? Tanti. C'è passato di mezzo intanto questo napalm dell'erotismo che sono i sessuologi in TV. Quando lei diceva prima sappiamo tutto della sessualità, ma non sappiamo niente, perché la sessualità è mistero, è passione, è gioco. Cioè non è una vivisezione, no? E poi questa offerta, questa specie di la sessualità come obbligo sociale, l'amore come cosa da ostentare. Lei guardi tutti questi maschi che ammazzano le donne, e fino alla settimana prima mostravano il quadretto familiare uscendo dalla chiesa o dall'IKEA, voglio dire, che è la nuova chiesa, no? Domenicale. E quindi c'è proprio una... E poi soprattutto, Nicoletti, noi siamo diventati degli edonisti ignoranti, non ci amiamo tra di noi, la cifra della nostra cultura è la prepotenza. Perché l'amore fiorisce ugualmente per caso, ma non si mostra. Ecco, le do un segnale sinistro, Alberti, però fa parte della cronaca di 10 minuti fa. Uno dei miei eroi più fulgidi era Oscar Pistorius, lo è tuttora, l'atleta paralimpico, l'uomo che in realtà senza gambe vince tutte le gare, perché ha delle gambe da gazzella artificiale fatte in fibra di carbonio, corre più veloce di tutti, era la dimostrazione palese che in realtà non c'è handicap se non una riprogettazione di uomo del futuro. Le gambe di Pistorius sono le gambe che noi tutti dovremmo avere nel futuro per essere più veloci e correre veloci come ci impone il nostro tempo. Questa notte lui sta in Sudafrica, quindi per lui San Valentino probabilmente è stato anticipato. La sua bella fidanzata, una modella stupenda, si introduce nella sua camera da letto per farle il regalo di se stessa di San Valentino. Lui prende la pistola e le spara pensando che era un ladro. Perlomeno questa è la versione che abbiamo fino a questo momento, e la uccide. Beh, non è significativo di questa tombale lettura che facciamo questa mattina della festa dell'amore? Sì, effettivamente... Direi che è piuttosto simbolico. Poi quanto a lui, chissà, lui è uno star, magari avrà anche lui interiorizzato un sentimento da macio onnipotente per cui chissà. E poi è anche strano uno che sta come Rambo, cioè se mi entra qualcuno in camera da letto non è che ho la pistola sotto il cuscino e gli sparo, voglio dire. C'è anche da dire che una persona che va a letto senza gambe forse probabilmente ha più difficoltà degli altri. No, questo è vero, e quindi ha una diversa, però quindi è probabilissimo che la sua versione sia vera, però però effettivamente questo suggella il presente San Valentino. Allora, dicevo, ho citato il film di Pasolini che ci dà i comizi d'amore, ci danno la traccia del passato sul cui poi costruire amaramente il nostro presente. Vuol dire questo pomeriggio, almeno per i romani, sarà proiettato al Cinema Trevi, vicolo del Putarello, dietro la Fontana di Trevi, perché c'è una manifestazione promossa dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Ministero dei Beni Culturali. Si sta lavorando sull'idea di leggere il proprio paese alla luce di quello che Pasolini scoprì allora. Fino allora non si parlava di sesso. Lui andò in giro, poi aveva chiamato insigni amici, tra cui Alberto Moravia, per chiedere, dice, ma faccio bene a fare questo. In studio oggi ho Sveva Veduto, buongiorno Sveva Veduto, che è direttore del CNR per appunto per la parte che si occupa di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali. Ecco, Sveva Veduto, perché il CNR, che è qualcosa che dovrebbe scientificamente analizzare il nostro paese, parte da Pasolini per capire a che punto siamo noi nel concepire l'amore? Perché si può scientificamente analizzare un paese anche attraverso il cinema, ovviamente, o attraverso sistemi che sono diversi da quelli, come dire, canonici della scienza. L'idea è quella di leggere l'Italia di allora e in controluce l'Italia di oggi attraverso Comizi d'amore. E Comizi d'amore fa vedere dei bambini scalzi, già far vedere dei bambini che stanno per strada è qualcosa di rivoluzionario rispetto a oggi. Che dice Pasolini, allora come nascono i bambini? Cioè, uno dice nemmeno in italiano, era sottotitolato. Pensa, nel 65 l'Italia doveva essere sottotitolata per essere comprensibile, dice, ma li porta la levatrice dentro una borsa. Bellissimo, quel pezzo è meraviglioso su come nascono i bambini, ma noi guardiamo quello che c'è dietro oltre quello che c'è davanti. Ci sono appunto questi bambini tanti scalzi che vanno in giro, ci sono gli studenti dell'Università di Bologna tutti in giacca e cravatta, c'è una squadra di calcio, il Bologna, con tutti i giocatori italiani. C'è un sud senza asfalto, ci sono poi ovviamente tutte le riflessioni o le convinzioni su quello che è l'amore. Lei parlava prima dei cosiddetti invertiti, ecco lì. Quella è la vera traccia, in realtà Pasolini voleva capire, tastare il polso per capire cosa pensano di una cosa che nemmeno lui ammetteva che esistesse. Certo. Cioè, ma i cosiddetti invertiti, una dice, ma se mio figlio nasce invertito spero che quando cresce guarisce, diventa un'altra cosa. Esatto. Federica, buongiorno, un'ascoltatrice. Buongiorno, dottor Nicoletti. Mi sorprenda con l'amore. La sorprendo con la mia esperienza, che è stata un'esperienza ed è ancora bellissima. No, non mi faccia il quadretto di lei felice col fidanzato e tenete per la mano, allora, guardate le stelle. Allora le parlo di me infelice nel momento in cui è stato contrastato il mio amore. Un amore verso un uomo più grande di me di 18 anni. Quanto? Siamo nella media oggi. Va bene, infatti, l'uomo diciamo un po' mantecato a me, non dispiace. Comunque 18 anni di più, con un divorzio alle spalle, due figli. Diciamo che nell'Edipo diffuso oggi delle fanciulle è la nostra speranza per una lieta vecchiaia. E praticamente un divorzio appunto con due figlie adolescenti, quindi immagini. Chi se l'ha collate? Lei, le figlie adolescenti, se l'ha collate lei insieme al vecchietto? No, non me le sono accollate, però penso di essere stata una buona compagna di viaggio, anche se all'inizio... Sai quanto le vorranno bene, che ha portato via il papà, che ormai era già considerato in pantofole e ciabatte, invece gli fa rivedere il padre nuovamente come una persona capace di amare. È dura, è stata dura per loro, è stata dura per me. Mago anche per lei. Avevo contro anche i miei genitori, che un po' con retaggi cattolici, un po' bigotti, l'idea di avere una figlia che sposasse un uomo più vecchio e anche con forza alle spalle, insomma. Quanto ha adesso il suo marito? Mio marito adesso ha quasi 57 anni, io ne ho 38, abbiamo una bimba di 5 anni. Vabbè, non è che sia vecchio, c'è la mia età adesso, non esageriamo. È un ragazzino, si figuri, siete dei ragazzini. E diciamo che la mia, così, l'esperienza è stata quella di quasi una sorta di illuminazione, perché io quando ho baciato per la prima volta mio marito, e l'ho baciato io, perché lui non si è aspettato lui, a quest'ora saremmo ancora lì, ho avuto proprio una sorta di illuminazione, ho sentito le cosiddette campane che suonavano e le sento ancora adesso, lo so che Però fra una ventina d'anni deve togliergli prima la protesi di baciarlo, sì, succederà sì, anche a me. Sì, la toglierò, la metteremo le bicchiere a quel punto, ci vorremmo cambierà il catetere e poi andrete tranquillamente. Ma è questo succede. Sono pronta anche a quella. Grazie Federica, lei è la mia speranza del futuro. Ugo, buongiorno. Sì, buongiorno, a me viene da ridere a sentire. Mi sorprende con una frase d'amore, parlavamo d'amore. Gentilmente nella scena di prima. Beh, io volevo solo contare la mia testimonianza, io sono sposato felicemente da 30 anni. Felicemente? Forse sono un matto perché io ritengo... E quindi come fa lei a cercare l'amore senza che sua moglie se ne accorga, visto che è felice? No. Non lo cerco perché lo cerco mia moglie, per me è normale cercarlo in mia moglie. E sua moglie è convinta che lo cerchi soltanto con lei? Beh, no, allora calma. No, io calma. Io sto parlando per me, non per mia moglie. Non lo sa. Non si pone il problema. Cioè, se, no, non me lo pongo il problema, perché cioè, se svegliamo questa cosa finisce il gioco dell'amore anche. Ah beh, certo, allora è meglio non sapere, è meglio stare... ciechi, sordi e muti. Io invece in realtà insino dubbi sull'amore eterno, sull'amore intoccabile, tetragono, inflessibile. E quando l'amore va troppo bene vuol dire che grazie a Dio qualcuno trova delle compensazioni. Emiliano Monreale, buongiorno. Buongiorno. Direttore della Cineteca del Centro Sperimentale di Roma. Hai una grande responsabilità questa sera perché tu dovrai far vedere a italiani contemporanei che guarderanno come si guarda un gioco lontano Pasolini, che in realtà faccia una cosa molto dolorosa per lui e molto incredibilmente crudele verso il nostro paese. Non ci vogliamo dimenticare quello che eravamo allora. Sì, il film è un, lo diceva anche prima Sveva Veduto, che sarà appunto anche lei stasera, oggi pomeriggio alle 18.30, questo incontro che seguirà la proiezione del film al Cinema Trevi. E la fotografia che fa il film è abbastanza impressionante. Ed è curioso perché in realtà le cose che emergono di più sono quelle di un'Italia arretrata in un certo momento. Molto bigotta. Adesso ricordiamoci, è il Pasolini che in quegli anni, vabbè, è vittima della censura e di altri, cioè in tribunale un giorno sì, un giorno no, è in una situazione in cui poi lui tra l'altro cerca davvero il confronto con quell'Italia lì che sta scomparendo, infine lui lo fa nel 63, eppure la cosa che oggi col senno di poi possiamo vedere è che il 63 è anche un anno in cui il boom economico in realtà si sta già esaurendo, la spinta se non altro politica riformatrice, no? Il centro-sinistra arriva già spompato, qualche anno dopo, ecco, credo che Pasolini vedendo quel film lì avrebbe fatto delle considerazioni di altro ordine, non dico simili a quelle che fa quando poi vede in televisione a Cattone, no? Negli anni 70 e resta in qualche modo... Poi Emiliano, secondo te quanto c'è di sincerità nelle persone intervistate? Nel 63... Questo è un altro problema. Nel 63 non è che erano molto abituati gli italiani personaggio che andasse lì con una cinepresa a fargli domande. Con delle cose ingombranti che non sono le telecamerine di oggi, ricordiamoci che non è l'apparato, anche la televisione aveva degli... Beh, questo devo dire che in qualche modo Pasolini lo mette in scena. Girava in pellicola allora con una macchina enorme, lui aveva un microfono che sembrava un fiasco di vino in mano, cioè non è che oggi andava come le iene con i microfoni nascosti e hai un quadro realistico di quello che è il paese. No, poi tra l'altro l'inchiesta era un genere in realtà relativamente nuovo e poco praticato, nella televisione queste cose non le faceva, c'era la cosa con lo speaker, uno dei primi a farle era stato Mario Soldati qualche anno prima, ma erano appunto pochissimi anni, 3-4 anni prima, quindi in realtà gli italiani non erano abituati a vedersi spuntare il microfono sotto il naso. E Pasolini ha alcuni modelli che sono un documentario di Gregoretti di poco precedente e poi della roba che facevano i francesi, molto bella, dei esempi di Cinema Verità come La cronaca di un'estate eccetera, e lui si mette in scena, ma si mette in scena in qualche modo anche in maniera molto vistosa, in questo devo dire è molto onesto e cerca anche con questo film, come con tante altre forme che pratica in quegli anni, delle forme più liriche, più poetiche, di film inchiesta, di film appunto di documentari di varia forma, di confrontarsi con questa Italia che lui avverte in una mutazione profonda. E noi Emiliano questa mattina facciamo esattamente la stessa cosa, ci confrontiamo con l'Italia contemporanea, qual è il segno, qual è la cifra, qual è la comprensione, qual è la tradizione, cosa è accaduto poi in questi 50 anni. Nazareno, buongiorno, ascoltatore. Nazareno? Ecco. Dove sta chiamando? Pronto? Sì. La sto la sto ascoltando, Nazareno. Chi sei? No, io sto dal fiorello a prendere una rosa per mia moglie. Come una rosa per... Come? Chi sono? Lei ha chiamato la radio. È lei che deve dirmi chi è lei. Sì, io sono Luciano Nazareno. Cosa fa Nazareno? Ho chiamato per dire una frase sull'amore, quella che ho scritto io. Come, ha scritto una frase sull'amore? Che vuol dire una frase sull'amore? Per chi? Allora, per sua moglie? Per sua moglie? No, in generale. Ma adesso dal fioraio a fare cosa sta? Sta dal fioraio, mi ha detto. Dopo la radio non mi chiamava, sono andato a prendere la rosa, mica potevo aspettare lì. Giustamente, la rosa si appassa. Così, lei andrà oggi da una donna con una rosa e una poesia d'amore. Chi è questa donna? No, sull'amore, no, la donna. Sì, proprio bisogna andarci lucidi la mattina quando uno va a fare queste cose, secondo me. Come? Cosa vuole fare? Nazaret, perché ha chiamato? Cosa vuole fare in questo momento? Voglio dire una frase sull'amore, quella che ho scritto io. E quando l'ha scritta? Stanotte? Nel 93. Ah, e ogni anno ripete sempre la stessa frase? Non l'ho detta mai a nessuno. È la prima volta che la dice? Ai privati sì, ma in pubblico no. Vediamo un po', sentiamo qual è sta. Allora, è senza titolo, eh? Sì, ma per fortuna. Guarda, un attimo che sto un po' affannato. Sì. Se sto bene con te, e sto bene anche senza di te, ma scelgo di stare con te solo... Lo faccio per il suo bene, Nazareno, perché chiunque possa sentire questa poesia in realtà fuggirebbe lontano e non darebbe esito e favorevole riconoscenza alla sua frase d'amore. La rosa, boh, se la porti in giro, provi a venderla in qualche ristorante, probabilmente avrà una buona giornata e soprattutto sia lucido e sobrio la mattina. Melog. La realtà condivisa. Senta signorina, il pensiero della vita sessuale, così detto a bruciapelo, senza pensarci molto, le dà più un senso di felicità o di angoscia? Ma io direi né di felicità né di angoscia. Beh, della mia vita sessuale direi che a un certo punto può dare anche felicità se è inteso in un senso, nel senso che è consono. Negli altri campi della vita, per esempio nel campo professionale, nel campo degli studi o nel campo politico, si sente più o meno libera in questo senso che nella sua vita sessuale? Io direi ugualmente libera in tutti i campi. Quello che sono i principi che regolano la vita non devono essere in contrasto con nessuna parte della vita. Complimenti. Ma vorrei sapere se questi principi che regolano la sua vita sono anche in qualche modo una repressione o un'inibizione dei suoi istinti sessuali o non lo sono affatto? Perché dal punto che li ho accettati, li ho non accettati perché me li 800 24 00 24, mesta, terrificante, crudele, vigliacca presentazione della festa di San Valentino che stiamo facendo questa mattina, ma è giusto dirlo, è questo. Chi mi dice, mi scrive, no, siete degli infami, cattivi a tutti i costi. San Valentino insieme alla festa della mamma sono le uniche feste che salverei dal calendario. Vabbè, ognuno ha il suo punto di vista, il mondo è bello perché varia. Questo era Pasolini che nei suoi comizi d'amore nei primi anni 60 andava in giro per l'Italia a cercare di scuotere giovani, giovanette, ragazzini e adulti sul tema del sesso e dell'amore. Questa ragazza risponde anche bene, in fondo non arrossisce, non fugge di fronte alla sessualità, ma erano molto, molto più tristi in realtà i suoi amici nel pezzo che viene dopo, che dicono: io non potrei concepire naturalmente il sesso se non fossi innamorato, non potrei mai avvicinarmi a una persona e desiderarla se prima non ne fossi innamorato. Barbara Alberti, mi sembra io sulla sincerità, e devo dirlo come ho detto con Emiliano Monreale, di questi intervistati ho molti dubbi. Non erano i tempi del reality show, delle troupe televisive che girano ormai in ogni buco di città, in ogni via, in ogni angolo, e tutti sono pronti e già sono sul set anche quando sono per strada. Se non c'è televisione c'è l'iPhone, c'è i tablet, si fotografano, si mettono nei social network. Questi facevano la loro particina, ognuno della brava ragazza, ognuno del bravo ragazzo. No, non è d'accordo. Nicolette, no, io la considero veramente, e non la considero, lei sicuramente un maestro della comunicazione, però invece pensi che io sento una grande sincerità, proprio perché non c'era ancora questa abitudine alla spettacolarizzazione e non tutti si sentivano, ha capito cosa voglio dire, con spiati. Non hanno nemmeno capito cosa fosse quella macchina che c'era davanti. Ma in dei conti, adesso la ragazza forse si è idealizzata, questa ragazza evoluta, che poi d'altronde se ci pensiamo, siamo vicini al 68, sta arrivando la pillola, quindi c'era comunque... ero giovane io, allora mi ricordo che voglia di rivoluzionare tutto che ci fosse, quindi questa ragazza forse fa un manifesto delle sue intenzioni, ma in ogni caso io non lo ricordo bene questo documentario, però lo vidi e stupefacente per la sua bellezza, per la sua audacia. Se va oggi pomeriggio al Cinema Trevi lo proiettano, c'è anche un sacco di gente. Allora, no, le dicevo Nicoletti, però io quello che ricordo, mi rimase un grande sentimento di sincerità da parte, come se fossero, perché allora quando ti intervistavano rimanevi sorpreso. Non so se mi spiego. Ma come funzionava nel 65, Alberti? Io ancora realmente ho ricordi. Sono i corti, come si diceva una volta. Sì, sì, no, vabbè, anche lei più o meno aveva le gonnelline corte, ma al tempo quando ad esempio, io mi ricordo che si diceva fanno l'amore. Dicevano le contadine, la mia figlia fa l'amore. Oggi fidanzato. Vuol dire che era fidanzato, c'era un buzzurro che veniva ogni tanto a casa, si mettendo lì seduti mano nella mano con la vecchia che li guardava dicendo, quello era fare l'amore. Ma lo facevano poi l'amore? Guardi, allora era più semplice in un certo senso, perché c'erano dei nemici visibili e concreti, a parte che davano ancora più senso alla tua libertà guadagnata. Bisognava combattere i preti e la famiglia. La prova d'amore, si diceva. Io ricordo la posta del cuore. Esattamente. La prova d'amore, ecco, e questo appunto allora si diceva, ma gliele devo, nella posta d'amore che io faccio da 27 anni, allora si diceva quando rispondeva Brunella Gasperini e altre, e lui vuole la prova d'amore, ecco. Esattamente. Adesso ti scrivono, sono vergine, non so come dirglielo. Io non capivo, guardi, io veramente ragazzi, io leggevo i giornali femminili e i primi turbamenti l'avevo da questi, scrivono, mi ha chiesto la prova d'amore, cosa devo fare? E tu rispondi, assolutamente no, non gli ha dare mai la prova, e non sapevo cosa fosse questa prova d'amore. Eravamo sempre in fuga, Nicoletti, eravamo sempre decisi ad affermare la nostra libertà. Io mi ricordo che si andava al cinema per baciarsi. E mi ricordo una volta mia sorella che tornò con degli evidenti succhiotti sul collo, e una sua amica si sottopose a questa tortura tremenda per non farli vedere ai genitori e al parroco, perché poi c'era un controllo, si fece fare dei graffi di gatto con uno spillo per mascherare questi succhiotti. Beh, io ricordo che a Perugia era il cinema Pavone, c'era il famoso palchetto delle pugnette, scusate il termine, l'ha chiamato così, e che era il più ambito, i fidanzatini andavano lì perché era un palchetto laterale che va dentro un'alcova nascosta, e allora il film se ne vedevano 5 o 6 uno dietro l'altro, se entrava alle 3 si usciva alle 7, se non aveva tempo. E poi diciamo, si interrogavano sul film, spesso non avevi visto un fotogramma, non sapevi neanche cosa eri andato a fare. Però c'era questo clima da guardie e ladri, che era intanto molto fervido per la passione. E c'è il sotterfugio, ma anche la decisione a conquistarti una tua libertà, sia pure, e poi c'erano le grandi battaglie per la libertà in famiglia, voglio dire. Boh, diciamo la verità. La pomiciatina sotto il cappotto, l'ultima fila, faceva toccare il cielo con un dito. Uno tornava a casa, gli bastava per un mese e mezzo. Quello era il problema. Rosaria, buongiorno. Rosaria. Buongiorno. A lei per quanto basta dare un bacio a una persona? Com'è? Per quanto basta la riserva di qualcosa di simile di quello di cui stiamo parlando con l'Alberti? Ma dipende dalle pulsioni che uno ha, se uno è molto... a pulsioni frequenti. Lei come pulsa, Roberto? No, se no può bastare. Dipende. Lei pulsa, Rosaria? Come? Lei pulsa ancora? Ma guardi, io ho 66 anni, quindi ho pulsato molto. Ha pulsato, ma è importante uno che abbia pulsato. Ho pulsato molto. No, io volevo dire su questa faccenda del San Valentino, che in effetti non può essere sempre San Valentino. Io sono sposata da 42 anni e non è che siano sempre state tutte rose e fiori, no? Ci sono dei momenti in cui uno vuole prendere e mandare tutto all'aria. Dipende dalla maturità che hai nel metterti nei panni dei figli. Ma perché cambia? Scusate, adesso posso dire una cosa. Ho davanti l'Alberti che è la fonte, la scaturigine della frase, secondo me, più fulminante fatta sull'amore. L'amore è per i coraggiosi, come dice Alberti, il resto è coppia. Lei sta parlando di coppia, non sta parlando d'amore. Esatto, ma io sono d'accordissimo con la signora Alberti, condivido moltissimo le sue opinioni, mi piace molto quello che dice, che come pensa, la seguo anche. E quindi sono d'accordo che bisogna essere anche pragmatici nella vita, la passione dura poco, diciamocelo francamente. Dopo subentrano altre cose, sarà banale dirlo, l'amicizia, diciamo che subentra quello a cui io credo molto, la complicità, e si è soci, si diventa soci. Sì, soci, bisogna vedere se i soci però ammettono che qualcuno vada in trasferta ogni tanto, quello è il punto. Ma guardi, lì poi dipende anche dall'apertura che si ha nel dialogo, no? Nella coppia. Sì. Certo, c'è il lato della sessualità che è molto importante. Quello che volevo dire è che, per quanto mi riguarda, per esempio a me è stato festeggiato un San Valentino all'inizio del matrimonio, e successivo, quando ho chiesto a mio marito, ma quest'anno niente, mi ha detto, non è una festa indotta, che induce ai consumi, quindi non si festeggia più. Ma no, che noia, un uomo che dice così io l'avrei mollato subito, fossi una donna, ma se Dio vuole ancora... Mi sono molto arrabbiata perché credevo ancora a queste cose, ero molto giovane, ma col tempo ho pensato anch'io che tutto sommato forse non aveva tutti i torti, ma questo lo pensi quando hai superato una certa età. Sentiamo Bruno, sentiamo Bruno, così adesso ci mortifichiamo un po'. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Come la pensa lei? Io per quanto riguarda la frase che volevo proporle per subirla era semplicemente che rispetto, ho sempre rispettato mia moglie, non sono stato... nel senso mai... che non le ha mai rotto un osso o le ha dato bastonate in questo senso? No, semplicemente perché non ho mai pensato di essere superiore e più che altro mi dà fastidio il pronome possessivo di mia moglie e è la persona con la quale condivido la vita. E basta. Basta, poi lo dice lei, il resto? Certo. Il resto è come ha detto la signora, ci sono stati alti e bassi, tranquilli, un po' più preoccupanti, ma la cosa più importante è che io appena la vedo sto a posto, anche se sono 33 anni che sono insieme a lei. Alberti? Mi sto intristendo, scusi, ma mi viene una grande... No, senta, Nicoletti, non sia così cattivo, voglio dire non questo. Sono cattivo, esiste mi mette tristezza. È importantissimo, che viene sempre sottovalutato però, e che fa parte anche dell'erotismo e di tutto, della sopportazione, che è la simpatia. Ci vuole una simpatia tra i due e ci vuole un progetto. Io glielo ho detto altre volte, le coppie più felici che vedo sono quelle che fanno un lavoro insieme, quelle che hanno il banco a mercato, quelle che hanno un progetto. Voglio dire, una simpatia e una reale affinità. Io non ci credo affatto. Allora bisogna essere soci, come dice la signora prima, bisogna essere soci. Ma no, si diventa tante cose, anche perché poi anche l'erotismo va e viene, voglio dire, non è che sia uno stato... Io dalle lettere che ricevo noto una cosa però, che moltissimi stanno insieme essendo delle monadi, ossia tutti trincerati in un'armatura di egoismo impenetrabile. E perché ricevo delle lettere dove l'altro non esiste, cioè dove ci sono solo rivendicazioni, lui non mi dà, lei non mi dà, lui non fa, lei ha letto è un disastro, lui ha letto è un disastro, e mai raccontare come sono loro. Beh Alberti, uno che scrive già un giornale, insomma, di opposti egoismi, è uno che chiede a un altro soluzioni sul proprio rapporto di coppia, vuol dire che già il rapporto di coppia è bello, che è tracimato in altri luoghi. Però c'è questa difficoltà nel dare e nel darsi anche, che secondo me è una cosa molto... Cioè il fatto, purtroppo, l'amore è crollato da quando è cominciato. Sì, però Alberti, lei me lo insegna, l'amore non è che va cercato, l'amore ti acchiappa, se non ti acchiappa uno si può inventare quello che vuole, può dire siamo felici, siamo dei soci, ci rispettiamo, non temeno e quindi ti rispetto, ma... L'amore da un'altra. Se l'amore non ci acchiappa, l'amore non c'è, noi fa la festa dell'amore. L'amore fa la festa a noi, io la vedo così. Melog. La realtà condivisa. Lei pensa che i giovani di adesso siano più liberi di quando era giovane lei o no? Sì, poi molto. Molto più liberi? Sì, del mio tempo sì. Molto più liberi. Ma è meglio come adesso o è meglio come era una volta? Per me è meglio come era una volta, non come oggi. E perché? Perché oggi è troppo spudorato. È troppo non so esprimermi, non so. Ho capito, ma senta, ma sua figlia mi sembra una ragazzina molto per bene. Ma cosa vuol mai, al giorno d'oggi sono tutti uguali. Sente cosa dice sua mamma di lei, ha ragione o no? No. Secondo lei è meglio come adesso o come al tempo di sua madre? No, per me è meglio come adesso. Pensate se adesso era questo, capito? Oggi è tutto troppo spudorato. È troppo spudorato perché da lì a poco tempo sarebbero arrivate le prime minigonne, sarebbero stati i primi inserti sigillati nelle riviste in cui si parlava di sesso, i licei milanesi avrebbero fatto le prime rivestine in cui si parlava di educazione sessuale nelle scuole, per questo sarebbero stati tutti cacciati, sospesi, puniti dal loro preside, la famosa zanzara, che è questa la storia in realtà del giornalino del liceo Parin di Milano, che fece questa cosa che dette tanto scandalo. Noi stiamo parlando di amore, però vedo che comunque non saremo più negli anni oscuri e bui registrati da Pasolini, ma tutti lo riportano, riconducono nell'istituzione. Ricordo che il film di Pasolini, Comizi d'amore, di cui stiamo parlando, sarà proiettato e commentato questa sera alle 17 al cinema Trevi, dietro la Fontana di Trevi, appunto a Roma. L'iniziativa è promossa dal CNR. Ho in studio Sveva Veduto, che è il direttore dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e Politiche Sociali, appunto, del CNR. Sveva Veduto, come stiamo guardando, però non mi sembra molto cambiata l'Italia, saremo più disinibiti, ne parliamo in maniera più libera, però alla fine c'è sempre davanti l'istituzione. L'amore, nella mia folle, fugace visione, qualcosa ti prende, che nulla a che fare con l'istituzione. C'è ancora un legame profondo per qualcosa che in realtà socialmente fa acqua da tutte le parti, come appunto l'istituzione matrimoniale, ad esempio? Ma l'Italia è cambiatissima e non è cambiata per niente per alcuni aspetti. L'istituzione famiglia ovviamente norma l'amore, lo regola e lo rende socialmente accettabile, socialmente strutturato. Quindi diventa un placebo rispetto a quello che è l'amore. Sì, da questo punto di vista direi di sì, dal punto di vista sociale no, comunque è una struttura entro la quale l'amore va ingabbiato, come dire. Poi quello che diceva lei è vero, è chiaro che l'amore magari è un'altra cosa. Poi da un punto di vista istituzionale è una parola non contemplata, se guardi da un punto di vista confessionale in realtà fa parte di un disegno divino, perché bisogna dare la famiglia, l'amore assoluto e darsi agli altri. Da un punto di vista istituzionale è lo stato sociale, la sopravvivenza, cose sacrosante. Ma non c'è nessuna istituzione che potrà mai dare e comprendere l'amore come un bene spendibile nel rapporto tra due persone. No, questo certamente no. Come dicevo, la famiglia e lo Stato norma i diritti dei figli, i diritti delle mogli, cioè è tutta una sfera che con l'amore tutto sommato non ha poi. Chissà perché l'amore e la felicità sono termini incommensurabili che non possono essere normati, non possono essere legiferati, nessuno può dare regole, quando in realtà sarebbero le fondamentali risorse di sopravvivenza. Per fortuna. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Stefano da Milano, 52 anni. È abbastanza triste, la sento, sì. No, assolutamente. Sto andando al lavoro, sono un transfrontaliere, sto andando in Svizzera. Un transfrontaliere? Sì. Vabbè, transfrontaliere. Si guadagna da vivere come vuole. Attraverso la frontiera, basta, sì. Volta lì. Anche perché io ho due ex matrimoni alle spalle, sì. Con il quale ho avuto tre figli, un maschio con la prima e due femmine con la seconda. L'ultima femmina ha 10 anni. Sì, con l'amore che c'entra tutto questo? Con l'amore c'entra, perché volevo dire questo, nonostante i due ex matrimoni alle spalle, nonostante due fallimenti, perché alla fine si sono rivelati due fallimenti, perlomeno sentimentalmente, volevo dire che io farò una specie di elogio all'amore. Io sono innamorato dell'amore, sono innamorato delle donne, con ciò non voglio dire che ne ha comunque. Le mie mogli facevo il libertino, roba del genere, assolutamente. Sono proprio innamorato e mi manca la complicità che avevo, soprattutto con la seconda moglie, visto che il matrimonio è durato molto di più. Quella complicità, quell'amore, anche se l'innamoramento dopo. Ma tutti dicono complicità, che in realtà lo traduco in attizzamento. Non dice complicità, dice con quella lì mi piaceva. Non trovo persone che mi piace come star con quella. Complicità. Complice è quando uno va a rubare insieme. Lì si rubano attimi perché c'è una sorta di alchimia per cui si sta bene assieme. Giulio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Io sono un ragazzo di 21 anni. Oh, finalmente, il pubblico giovane. Pensavo questa mattina va l'influenza, cos'è successo? Ormai ci chiama. No, vi chiamo perché pensavo che comunque sì, abbiamo in qualche modo rispetto agli anni 60 superato un certo dogmatismo, come diceva lei, la sessualità è socialmente accettata, contemplata in tutte le sue sfaccettature. Eppure siamo passati a un altro estremo che io vivo abbastanza sulla mia pelle. C'è questa sessualità, come diceva Alberti, comunque vissuta come una specie di collezionismo, con questa ansia infinita anche rispetto agli amici, di comunque... Perché fate gare con gli amici, chi fa più tacche sul calcio al vostro Winchester? Sono gare implicite che secondo me esistono anche fino ai 30. Ma perché uno lo racconta anche, bisogna raccontarlo. Assolutamente, assolutamente. Allora su cosa è basato il punteggio? Il punteggio su quanto è carina la ragazza, sicuramente, dunque indubbiamente penso che anche lei abbia avuto esperienza attraverso amici, attraverso racconti, di quanto oggi comunque la sessualità... No, io nella mia vita ho avuto solo una donna e l'ho sposata, quindi non lo so. No, dico attraverso racconti, dicevo, non attraverso la sua esperienza diretta. Ah. Di come comunque oggi la sessualità sia vissuta con questa certa ansia, con questa quantità infinita, insomma... Vabbè, ho capito Giulio, guardi, se lei è il rappresentante, però mi scusi senza volergliene, oggi farà un pensiero d'amore, avrà qualcosa di diverso rispetto alla triste, monotona routine di andarlo a raccontare agli amici, oppure è una giornata come un'altra per lei? Per me è assolutamente una giornata come un'altra. Perfetto, una giornata come un'altra, non avevo dubbi. Barbara Alberti, i giovani ci confortano. No, posso dire un'altra cosa, che secondo me è diventato, quello che racconta lui è vecchio come il mondo, sì. Cioè si fa per raccontarlo agli amici, no? Okay. C'è questa forma di omofilia, sempre come anche vediamo importanti personaggi politici. Allora, però come contorto adesso, per esempio, le dico, io dal mio piccolissimo osservatorio, che come diceva lei è molto parziale, direi che l'amore è fondato sulle corna, ma sento questa lettera che mi è arrivata per Radio 24, una donna che si innamora di un altro, lascia il marito, va a vivere con quello nuovo e continua ad avere una storia sessualmente formidabile col marito. Quando torna da queste sue sedute di fuoco, racconta a questo nuovo marito, che è un intellettuale, quello che ha fatto. Vabbè, perché oggi va molto questa cosa lì. Chi lo racconta? Come? Ma oggi, Alberto, bisogna che si documenta. Oggi la maggior parte degli uomini, lo so perché lo dicono le mie amiche, dicono alle donne, va con altro, poi racconti quello che hai fatto con l'altro. Infatti, ma perché guardano i film zozzi su YouTube che lo fanno in 10, in 50, in 30, quindi non gli basta avere una donna per voi. Ma l'altro si eccita, l'altro la analizza, cioè, voglio dire. Ed è perché la sua sessualità è quella, naturalmente. È una sublimazione della sublimazione della sublimazione. Perché in realtà vorrebbe essere lui al suo posto, e questa, diciamoci la verità. Sì, c'è poca felicità in questo e c'è anche poca sincerità, voglio dire. C'è qualcosa, cioè se non è contorto non... bisogna condirlo, perché non c'è, questo è il punto. Quindi in conclusione, Sveva Veduto, noi questa sera al Cinema Trevi vedremo quello che rimpiangiamo come era l'unica grande favolosa occasione di divertirsi, di dedicarsi all'amore, di amare, di avere fremiti sessuali, perché quello che è venuto oggi dell'Italia contemporanea, se noi ne siamo uno specchio, dal signore anziano che fa la poesia sconnessa al giovanotto che alla fine sembra che è quasi un peso, una noia, oggi si annoia veramente tanto. Quindi alla fine dobbiamo ricordare e valorizzare i vecchi bei tempi degli anni 60, è questo che vi sta dicendo? Ma vivere sulla nostalgia, Alberti, però non ci salva. No, ma io non sto affatto dicendo che bisogna tornare indietro, dico che si è perso molto, che si è conquistata una libertà imperfetta che è una tragalera, semplicemente. Può fare una proiezione, Alberti? Verrà un momento felice in cui si tornerà agli antichi chador che ci mettevano addosso mentali e finalmente ci attizzeremo un po' di più? Per l'amore è quello che conta. Al momento devo dire che soltanto la Chiesa dà un senso al sesso proibendolo in qualche modo, con la sua cecità, con la sua persecuzione, perché con gli omosessuali c'è proprio una persecuzione in atto della Chiesa. E quindi che devo dire? Non so niente, sono una foglia al vento come lei, Nicoletti, di peggio perché so meno. E quindi ecco. Evidentemente abbiamo dato la prova concreta che San Valentino è morto, ammesso sia mai esistito. Quindi rinunciate all'amore, fate quello che dovete fare, ma basta che non lo raccontate. A domani. Melog, la realtà condivisa.